La festa di San Gennaro, quanta folla per la via, un zazà compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il parsifallo, il maestro sul piedestallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mietta tutta che la gente se fumarono zazà, dove sta zazà? Oh madonna mia, come fa zazà senza Isaia? Pare pare zazà che t'ho perduta in me, che ha trovato zazà che m'ha furta a me. Io me la trova, su facciamo presto, io me la trova, con la banda in testa. Uzzà, uzzà, uzzà, uzzà, quanto mi grida, zazà, zazà, zazà, Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Zazà, zazà, zazà, zazà, come ha già fatto per trovare. Era la festa di San Gennaro, l'anno appresso cante e suon, bancarelle e processione, chi se può dimentica. C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantà. Come allora quel via vai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia sempre in cerca di zazà, dove sta zazà? Oh madonna mia, come fa zazà senza Isaia? Pare pare zazà che t'ho perduta in me, che ha trovato zazà che m'ha furta a me. Se non troverò lei che è tanto bella, ma contenterò di trovar sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure lei glielo dirò che tamerò, tamerò zazà, tamerò zazà, tamerò zazà. Zazà, zazà, zazà, zazà, zazà.